Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Come ho detto, riprendiamo esattamente il punto lasciato dai colleghi poco fa, che hanno raccontato con alcune persone addette nel settore gli aspetti, le profezie, il passato e il probabile futuro di questo papato. Io riassumo la riflessione che prendo a questo punto e porto avanti con il pubblico da due foto in cui si presentano i due aspetti più contrastanti di questo papa. Leggo un SMS: state trattando soltanto banalità. Non tratto banalità, tratto due rappresentazioni iconografiche che secondo me rappresentano i due punti totalmente in contrasto fra di loro, totalmente ed estremamente antitetici. Però lo rappresentano e rappresentano l'inizio della discussione che vorrei fare con il pubblico. L'uno è di Jorge Mario Bergoglio, che lava i piedi a una donna durante una celebrazione nell'aprile 2005 a Buenos Aires. È inginocchiato, vestito di bianco, tiene il piede di una donna del popolo che ha in mano un bambino. Lei porta delle ciabatte di plastica, infradito, e lui, con una figura, un'iconografia che sembra quasi tratta da una rappresentazione del sacro, da una di quelle di quei tableau vivant che vengono fatti in certe occasioni, in certe località dove è molto viva la fede, con alcune donne attorno, chi gli regge la bacinella, chi gli regge l'asciugamano, e tiene in mano, in punta di dita, il piedone della signora e getta l'acqua per lavarle i piedi. Un gesto di grande umiltà, è il gesto che più rappresenta questa sorta di euforia che ho visto celebrata ieri sera nei salotti televisivi. Bruno Vespa mandava in maniera ininterrotta spezzoni tutte le fiction su San Francesco per assimilare questo papa, che ha voluto chiamarsi Francesco, l'aspetto della povertà, del poverello d'Assisi, che è la figura più contrastante rispetto alla gerarchia della Chiesa. L'altra foto lo vedo sul profilo Facebook delle madri di Plaza de Mayo, le madri dei desaparecidos argentini. Questa mattina una madre mette una foto che ha circolato in tutti i giornali, in cui appunto lo stesso Cardinal Bergoglio, al tempo probabilmente non cardinale, forse solo sacerdote, dà la comunione a Jorge Rafael Videla, il dittatore dell'Argentina, che senza nessun pentimento ha ammesso la sua responsabilità diretta nella morte di almeno 8.000 persone. Adesso sta scontando la pena di morte nel carcere di Campo de Mayo a Buenos Aires. Due figure in totale contrasto. Su nessuna delle figure si avrà la certezza della sincera verità espressa in quella foto. La sincera verità di un vescovo, un cardinale che lava i piedi una donna del popolo di fronte alla macchina fotografica per farsi rappresentare in quel gesto di umiltà che vuole dire tante cose, c'è chi nemmeno quello fa, e la figura di spalle, non ho la certezza matematica che si tratti esattamente di Papa Francesco, nella persona che comunque dalla comunione ha un efferato assassino, e si apre tutta la questione che è stata già toccata dai colleghi poco fa, la questione del libro dell'Isola del Silenzio di Orazio Verbischi, che improvvisamente è diventato il libro di cui più si parla in Italia. Io me ne accorsi ieri sera, misi subito la notizia su Twitter che mi sembrava importante, un momento di celebrazione, considera anche questo aspetto, tanto per avere comunque un aspetto in più, una nube da chiarire per la serenità di tutti. Sul fatto che di questo Papa nessuno aveva fatto un pronostico, ho qualche dubbio, proprio in una prefazione che vedo fare all'edizione italiana del libro L'Isola del Silenzio, fatta da un signore, José Luis Scanferlato, nell'ottobre del 2009, dice: l'edizione italiana ha un capitolo in più che commenta il fatto che Verbischi non poteva prevedere, al momento di mandare alla stampa l'edizione originale in spagnolo, che dopo la morte di Giovanni Paolo II, il principale contendente del cardinale Ratzinger per la sua successione, fosse proprio Bergoglio. Non esclude che quest'ultimo possa avere una seconda chance alla guida del Vaticano, visto che Benedetto XVI ha già 82 anni. Solo il tempo potrà confermare o smentire questa previsione. Questo era stato scritto nell'ottobre 2009. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io faccio i complimenti a voi per la trasmissione, ma faccio un grandissimo biasimo alla stampa intera, alla nostra stampa, che non ha perso l'occasione per dimostrare la propria superficialità e la propria profonda impreparazione. Allora, io parlo come persona che va a lavorare, lavoro per una società che cura grandi computer, cosiddetti laboratori di fascia alta. Mi mandano in giro un po' per il mondo, alle volte non è un bene, però alle volte sì. Vi parlerò di un'esperienza di 3 mesi di lavoro in Argentina 8 anni fa e 2 mesi di lavoro 3 mesi fa. Periodo Kirchner marito, periodo Kirchner moglie. Allora, è facile per una persona che sta 2 mesi lì sapere chi era Bergoglio. Facile sapere anche come si muove una dittatura, d'altronde lo abbiamo provato anche noi, se un po' provassimo a ricordare come non è semplice, pronto? Sì, la sto ascoltando con attenzione. Come non è semplice vivere sotto una dittatura. È chiaro. E come tutti gli uomini di chiesa, tutti, fossero guardati col binocolo fino all'interno delle proprie membra dalla dittatura. Vi posso dire che per quello che so, per quello che in Argentina gli argentini hanno detto a me del periodo argentino, della dittatura argentina, che Bergoglio, come altri, vedi, hanno aiutato la gente ad andare via dal paese e dovevano farlo con molta attenzione. Adesso commentare questo come fa Twitter, come fa Internet, con questo grande gossip generale, senza nemmeno preoccuparsi di andare a vedere chi era la persona, non è un santo, non lo conosco. Sicuramente prende il collettivo, cioè il mezzo che prendono tutti i mezzi pubblici. Sicuramente battezzava i figli nati da donne single, cosa che gli altri non facevano, gli altri gesuiti. Ma dobbiamo anche capire che cosa, vi dico anche di più, era un grande ballerino di tango e ha un terzo del polmone sinistro. Cioè, ma io non sono un giornalista. Sì, ma sta ripetendo ma quello che... Scusi, no, Marco, quello che è scritto in tutti i giornali. Sta elencando... Non lo leggo in tutti i giornali. Ti dico una cosa, che ieri tutta la serata ho visto trasmissioni, ma guardi, le dico, questo vale per tutti. Nick Clegg in Australia, che adesso è andato via. Cioè, è un po' sistematico vedere come non si dice che cos'è il gesuitismo in Argentina. Non parlare della religione Misiones. Ve la dico breve così la capite. Sì, sì, capisce, però no? Scusi, Marco. Mission, Marco, scusi, Marco, mi faccia parlare. Con calma però, con tranquillità. Senza però, nessuno di noi è animato da spirito di rivalsa contro nessun collega, contro nessuno. Ascoltiamo lei come ascolto chiunque. Lei comunque ha detto le cose che sono scritte nei giornali questa mattina, della mancanza del polmone, che balla il tango, la fidanzata, tutte fanno parte dell'aneddotica, del gabbiano appoggiato sul camino che prevedeva l'aspetto. Queste sono tutte, è l'aspetto folcloristico. L'aspetto sostanziale di una persona si vedrà agli atti. L'aspetto legato al passato, non è che si vuol fare dello scandalismo, è uscito un libro dove tratta in un capitolo di una vicenda abbastanza controversa, non citarlo sarebbe stato comunque fare opera di omissione, aprire un dibattito su questo mi sembra la più civile delle maniere, come stiamo facendo noi questa mattina. Certo, non ho pregiudizi, che, no, mi piace sì. Avere... No, io invece purtroppo un po' ce l'ho nei confronti di una stampa molto superficiale, perché quello che ve l'ho detto, non è che l'ho letto dai giornali di oggi, io le stavo parlando del gesuitismo, per esempio. In Argentina cosa ha voluto dire? Lui è dell'area di Buenos Aires, Baires è un altro modo, un'altra amministrazione, ha un sindaco che è quasi, non dico un capo di Stato, ma è un'altra... Per le dimensioni della, diciamo, città, che è grande l'Argentina, non è no, è grande Buenos Aires, è così grande l'Argentina che la regione Misiones, che è quella di Iguazú, ha visto i gesuiti non essere i gesuiti europei e per questo ricevere una famosa bolla papale. Cioè, io in soli 3 mesi una volta e 3 mesi dopo, anche la vicenda dei matrimoni gay, io non sono un credente, è chiaro che si faccia difesa da parte della Chiesa di quello che è interessato poco alla Chiesa, tanto che... Vabbè, adesso che mi sembra che la questione, onestamente, la questione fondamentale sia che questo neopapa non si sia espresso in maniera favorevole per i matrimoni gay, va da sé, fa il papa, non si può pretendere dal papa che improvvisamente abbia delle aperture che la Chiesa non può avere finché perlomeno rimane organizzato su un certo tipo di pensiero. Poi fermiamoci un attimo, Marco. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno a voi. Al volo, perché Ignazio Ingrao ha soltanto 5 minuti, è il vaticanista di Panorama, appena pubblicato un libro, Il Concilio Segreto, edizioni PM, dove non era andato oltre rispetto a quella che è stata la sorpresa di questi giorni, o mi sbaglio? Sì, diciamo che al solito, come dire, in questo caso secondo me anche in questo caso i cardinali hanno saputo conservare bene, diciamo, il segreto rispetto a quello che erano le loro reali intenzioni. Ma era immaginabile quello che è arrivato secondo l'altra volta che arrivasse prima? Com'è nessuno ha mai tirato fuori il secondo candidato dell'altra volta? Lo possiamo interpretare in due maniere: o i cardinali hanno capito di aver fatto un errore 8 anni fa e quindi hanno voluto rimediare, oppure se vogliamo leggerlo più benevolmente, hanno cercato, diciamo, hanno deciso di scegliere chi poteva completare il lavoro di Ratzinger, essendo complementare a Ratzinger, cioè appunto proiettato su quelle dimensioni che invece Ratzinger aveva lasciato un po' disattese. Quindi tu vedi una linea di continuità, Ignazio? Ma vedo una grande saggezza della Chiesa, nel senso che oggettivamente questo, c'è una grande capacità anzitutto di gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, quindi poi anche di non lasciarsi prendere dalle divisioni. Credo che nessun partito politico, diciamo, si sarebbe riusciti a fare questa operazione, per cui... Beh, Ignazio, mettendo giù la carta, San Francesco ha messo un po' a zittire tutti subito, diciamo, come primo messaggio. Ti parlo da analista della comunicazione, sì. È un papa autoritario, oggettivamente, questo, certo. Perché Bergoglio ha saputo, se si è dimostrato sempre nella sua storia, comunque come un uomo autorevole ma anche autoritario. E quindi alla fine la Curia ha chinato la testa, i Gattopardi hanno fatto un passo indietro, hanno deciso di mettersi nelle mani di un uomo appunto autorevole ma severo, rigido sulle questioni morali, attento ai poveri e alla gente, e quindi per questo ha quel carisma, diciamo, per fare le riforme, ma insomma non c'è da aspettarsi, diciamo, una rivoluzione sui temi morali, etici o altro. Però convieni, scusami, Ignazio, convieni, so che tu sei molto attento nell'osservare queste cose, quindi ti ascolto con grande interesse, che in realtà la prima mediazione data dalla televisione italiana, anche dai giornali italiani, è una sorta di Albino Luciani bis. In qualche maniera sì, Albino Luciani, al di là dell'aspetto mite, era probabilmente il più ferro e il più deciso comunque a cambiare le cose all'interno della Chiesa, e molto probabilmente, secondo letture forse fantasiose, e questo l'ha dovuto pagare. E invece questo Papa in realtà lo stanno facendo quasi passare come una sorta di Papa, quasi la teologia della liberazione, mi sembra tutt'altra cosa. È un errore, se ne accorgeranno presto. È un uomo appunto che il suo rigore spirituale, la sua sobrietà, diciamo, la sua ascesi, però poi si traduce anche appunto in una anche rigidità. Non ci dimentichiamo che si è addirittura poi dimesso da provinciale in contestazione con padre Pedro Arrupe, allora a proposito generale, perché negli anni 70, per le sue eccessive aperture, secondo Bergoglio, di Arrupe proprio sui temi, diciamo, morali e sui questioni della Chiesa, e poi, come ricordavi tu, anche, diciamo, le questioni del rapporto con il regime militare, con quella guerra sporca che ha coinvolto tanti elementi della Chiesa, che comunque è un passato anche, diciamo, che pesa su Bergoglio. Lui ha chiesto scusa, ma questo ci aiuta a capire un po' la sua fisionomia. Ma diciamo un po' somiglia anche sui primi attacchi che vennero fatti a Ratzinger quando uscì la sua divisa e la sua foto in divisa da soldato nazista. Si prova a dire che addirittura fosse quasi una sorta di ex militare, quando in realtà poi la cosa era molto più sfumata. Riuscirà, secondo te, la Chiesa a contenere e a, in qualche maniera, a trattare anche questo argomento scabroso che è uscito subito a caldo appena eletto il Papa? Ma credo che lo dovrà assolutamente affrontare, ma mi sembra per la semplicità e la linearità anche comunicativa di questo Papa, io credo che alla fine lo affronterà anche lui direttamente, insomma, come lo ha fatto già in un libro intervista che è uscito qualche anno fa. Quindi a me sembra che diciamo, da questo punto di vista è schietto, si è dimostrato molto schietto, i romani hanno molto apprezzato questa sua semplicità, questa sua schiettezza, e credo che affronterà anche questo tema. Però certamente è una personalità molto forte, con un passato, insomma, anche di uomo di governo, di uomo decisionista, e per certi versi dicono anche un po' accentratore nell'esercizio, diciamo, del suo governo, e tuttavia pure attento alla collegialità. Insomma, sono personalità evidentemente complesse, e quindi, diciamo, ecco, non ridurlo allo stereotipo del papa buono mi sembra molto molto. Ecco, ultima cosa, Ignazio, ultima cosa. Cosa è accaduto ieri che addirittura Spari sia partito quasi un telegramma di congratulazioni nei confronti di Scola. C'è stato un po' di subbuglio, i poteri hanno avuto una sorta di scossone, si parlava nei sacri palazzi di sconcerto e di previsioni non proprio arrivate secondo quella che doveva essere la linea che tutti si auspicavano. Guarda, i poteri hanno preso davvero uno schiaffone, direi che la grossa bestia del potere, come avrebbe detto Simone Weil se avesse commentato questo conclave, è stata sconfitta. E la bestia del potere della curia, dei politicanti e via dicendo. Io non voglio dire che Scola rappresentava questo, però assolutamente, però comunque c'era, diciamo, una filiera, soprattutto all'inizio, dei curiali e altro, che pensava, insomma, di confezionare un conclave rapido a proprio uso e consumo, oppure c'era chi pensava, appunto, che da lontano, dai fuori, con uno schieramento magari mediatico, anche si potesse decidere il Papa. Ma chi è che ha sparigliato, secondo te? Chi ha sparigliato di fronte a una candidatura a Scola che sembrava preparata in anni? Poi alla fine bisogna vedere quanto poi i cardinali all'interno tutto, diciamo, all'ipotesi di Scola, oggettivamente. E la realtà è che hanno sentito la necessità di una riforma, hanno capito che il mondo, anche la Chiesa ha capito che il mondo è cambiato profondamente e che bisogna voltare pagina su tanti scandali, su tanti modi di gestire, insomma. Ma è vero, secondo te, che la Chiesa avrebbe rischiato uno scisma se non faceva un Papa, diciamo, orientato nell'area in cui il cattolicesimo è più sentito, più frequentato e più profondamente vissuto? Ma non lo so se sarebbe arrivato allo scisma. Io credo però che con grande questo che sorprende, che poi alla fine, dopo le dimissioni di un Papa con lo scontro che c'era all'inizio, in 10 giorni hanno trovato un'unità e comunque una conciliazione che è straordinaria. Questo obiettivamente è avvenuto. Grazie Ignazio. Fernando, italo-argentino. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, io sono un semplice operaio, così come tutti, ho fatto la notte, no? E erano tutti contenti fuori, ci venivano a trovare e mi hanno detto... Lei di dov'è originario esattamente? Io sono argentino di Buenos Aires, della periferia di Lanús, un quartiere periferico, e purtroppo... Fino a quando è stato in Argentina? Io sono partito dopo, fino all'85, nell'85, e dopo con mio fratello purtroppo siamo dovuti andare a provare un'altra fortuna in Spagna. E dopo, a partire, diciamo, dopo la crisi ha pensato che... Diciamo che noi siamo stati dei migranti proprio per economici. È stato anche un'altra emigrazione che è stata quella della dittatura. Io ho vissuto in un barrio... Quindi lei la dittatura l'ha vissuta in pieno in Argentina? In pieno. Allora, io provengo da una famiglia cattolica, mia madre sempre cattolica, vabbè. Comunque, io lo che voglio dire, ho sentito anche il precedente programma, io lo che sempre ho visto, che purtroppo la Chiesa cattolica è stato proprio complice della dittatura. Oggi quando il mio collega mi ha detto, ma sei contento che Argentina, l'ho detto, dimmi quante, perché io non lo sapevo neanche, 76 anni, ho fatto il calcolo subito, ho detto, allora questo Papa sicuramente aveva 40 anni, e in quel momento lì, quando la madre di Plaza de Mayo si manifestavano, la Chiesa invece era tutta una burocrazia, in più mai è stato proprio con il problema reale che ha sopportato in l'Argentina, di 30.000 desaparecidos, persone che sparivano, e anche in Cile, mi ricordo bene l'altro Papa, Juan Pablo II, è andato e ha bendecito le armi. Cioè, purtroppo io non lo so, io ho capito la gente che crede. Io rispetto a mia moglie, che lei crede, però crede proprio in Dio, però proprio io vedo un punto in comune che è una politica che oggi... Questo non... Quindi Fernando, lei mi fa capire, da argentino che ha vissuto a pieno quei periodi lì, in Argentina è una piaga, una ferita talmente profonda, talmente forte, talmente abnorme, quella che è la connivenza palese, che c'è stata in molti casi palese, i preti che danno, che benedivano le persone prima che le buttassero dagli aerei. E quindi è talmente forte che comunque sia un rappresentante del clero argentino, per quanto si possano fare distinguo, per quanto abbia smentito, per quanto sia controversa la questione della sua complicità con il regime, comunque sia qualcosa che è difficile mandare giù. difficilissimo, difficilissimo, e questo che adesso dice che lui chiede scusa è incredibile. Dopo io, ovviamente la Chiesa è in un periodo che sa, in Spagna che è un paese molto cattolico, la gente praticamente, soltanto le persone anziane continuano, invece loro devono fare proprio una scelta, e sicuramente è stato proprio una scelta in questo Papa per creare nuovi, cioè per dare un lavaggio a tutto lo che ha significato preistoricamente la Chiesa Cattolica. E io lo che penso, questo, cioè che la Chiesa è politica, se sa, e esattamente come quando Monti in Italia, tutti lui parla molto tranquillo, sembra un prete, e alla fine anche, mi ricordo che i miei colleghi mi dicevano, ma no, no, guarda che vedrai che adesso Monti, invece mi sembra che vanno proprio in linea la Chiesa e la politica, e questa cifra che hanno sparato, 6.000 miliardi che ha il Vaticano, è impressionante, è incredibile, proprio no. Vabbè, noi ci fermiamo alla parte della sua esperienza argentina, che è quella che riteniamo originale rispetto a quello che poi leggiamo, poi le sue profezie sul futuro, vedremo all'atto dei fatti. Mi stanno scrivendo un sms, dice: non dimenticate la foto del tanto santificato Papa Giovanni Paolo II a una finestra assieme al dittatore cileno Augusto Pinochet, non era certo una bella foto. Con le foto naturalmente si possono fare delle riflessioni, le foto rappresentano dei momenti, degli istanti, è l'atto quotidiano poi dell'azione fra questo Papa che ci permetterà di giudicarlo, però questo non ci impedisce comunque di chiarire, o perlomeno di porgere la nostra attenzione rispetto anche a tutti i punti oscuri che, devo dire, che ieri sera nelle rappresentazioni ufficiali della televisione pubblica non sono nemmeno state lambite. Melog, la realtà condivisa. Siete patetici, tentate di sminuire l'importanza di quello che è accaduto, mi scrive Claudio da Reggio Emilia, ma io non devo essere né apologetico né denigratorio, devo dare degli elementi di discussione, devo stimolare le discussioni, le riflessioni rispetto a ciò che è stato già detto. 800 24 0024, dite la vostra sul nuovo Papa Francesco rispetto a quello che avete visto, quello che avete intuito, quello che avete ascoltato. Maria, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, io volevo dire questo, siccome ieri sera ho assistito al momento in cui il nuovo Papa si è affacciato, e mi è piaciuto tantissimo quando lui ha chiesto al popolo di pregare per lui e di pregare in silenzio. Io sono una fautrice del silenzio e quindi mi sembra che ne è stato parlato già troppo, no? Il silenzio. Pretendere da una persona che si guadagna il pane parlando alla radio l'apologia del silenzio, certo, è un po' troppo. Io l'ammiro, l'ascolto sempre quando viaggio in macchina, mi piace. Il silenzio è fortemente mistico e ascetico, ma è anche molto ambiguo. No, io penso di no. Guardi, c'è una comunità mondiale della meditazione cristiana che si rifà al monaco benedettino John Mann. Sì, che fanno la preghiera silenziosa, queste cose. Silenziosa con il mantra Maranata. Sì, Maranata, li conosco. A Trastevere, esatto, c'è una comunità, conosci. A Trastevere, proprio gestita da un sacerdote gesuita argentino, quindi va benissimo. Sì, ma non è che non si debba parlare... Uno può meditare in silenzio, ma ahimè le occorrenze quotidiane ci impongono di esprimere pareri, di certo, elaborare concetti. Tutti vi siete buttati sopra, no? A trovare tutto ciò che non va bene, o ciò che è bello, ciò che è brutto. Vabbè, mica stiamo a parlare di un poveraccio, stiamo parlando di un Papa che giustamente quando si espone a quel balcone espone tutto, il passato, il presente e anche il futuro. Comunque io volevo portare questo mio modesto contributo. Di momenti di silenzio contemplativo, sì, certo, perché... Sì, ma non può chiedere a un giornalista, osserva il silenzio contemplativo, è un po' troppo. Io rispetto l'ascesi, che è un esercizio formidabile per centrare se stessi e anche salvarsi l'anima per chi è convinto di averla, però il silenzio in questo momento non fa proprio parte del mio stile professionale. Raul, buongiorno. Raul è caduto, Raul è un italo-argentino, vediamo se riusciamo a ritrovarlo. Bruno Ballardini, buongiorno Bruno Ballardini. Buongiorno a tutti. Ballardini è esperto di marketing, comunicazione strategica, autore di Gesù e saldi di fine stagione, perché la Chiesa non vende più, PM Edizioni, libro profetico che in questo momento meriterebbe una ulteriore ristampa e appendice, perché tu hai degli elementi formidabili da aggiungere alle tue riflessioni. Mi hanno dato della Cassandra ultimamente. Sì, adesso non nel senso, hai più elementi tu da ieri pomeriggio alle 19 a questa mattina per riflettere che nei precedenti, secondo me, 24 mesi. Il Papa povero, sono Francesco e vengo da lontano. La veste bianca rispetto alla magliettina nera che usciva dalla veste infilata alla belle meglio del Papa Ratzinger quando si affacciò a quel balcone. Il Papa che lava i piedi alla donna del popolo, Papa che balla il tango, il Papa che ha avuto una fidanzata, il Papa povero e allo stesso tempo il Papa cattivo, il Papa che toglie i suoi confratelli gesuiti dai luoghi di povertà dove lavoravano, li denuncia e addirittura li fa sparire, il Papa che poi ritorna su queste posizioni. Ci sono tanti degli elementi. È un personaggio molto complesso, apparentemente semplice, come ha cercato di far credere, perché in realtà, a parte la sua carriera lampo, che il grosso della sua carriera è durato 6 anni, cioè in 6 anni è arrivato agli alti gradi, il suo discorso iniziale è stato di una semplicità estrema, ma lui non è semplice, lui è un gesuita, cioè non dimentichiamo che questa è gente preparatissima. Anche se non so onestamente, Bruno, quanto i gesuiti ieri abbiano stappato champagne, se di tanti gesuiti potranno diventare papa, è diventato proprio quello che ha delle ombre più profonde, più dolorose, sì, proprio nel rapporto fra gesuiti. Sì, ma anche con le istituzioni politiche, perché molta gente in questo momento si sta chiedendo se ci sarà una chiarificazione dei suoi rapporti col regime argentino all'epoca in cui c'erano i desaparecidos, eccetera. Ora, il discorso è molto più ampio. Lui ha scelto un nome che è molto significativo e in termini di comunicazione è già una grande operazione. Un'operazione di marketing perfetta. È enorme, perfetta. Oltretutto, calza al personaggio anche perché lui è sempre stato molto sobrio nei costumi, ci sono girate subito le foto di lui che andava in metropolitana, aveva una scelta di vita molto sobria, ma Francesco... Diciamo ha un marketing dell'immagine molto efficace. Sì. Vediamo adesso come riuscirà a elaborare anche l'aspetto oscuro della sua biografia. Il discorso è ampio, si sta parlando già di una lettera segreta lasciata da Ratzinger sul suo tavolo senza influenzare minimamente il conclave, ma poi anche la scelta del Papa è particolare, nel senso che lui è un, come dire, mezzo sangue italiano-argentino, cioè risulta italiano e argentino, non mezzo sangue, risulta rappresentare entrambe le cose, perché serviva da una parte un Papa italiano, dall'altra serviva un papa del nuovo mondo. Terzo mondista, diciamo, ecco. Così. Esatto, terzo mondista. E qui questo personaggio è riuscito a sintesi perfetta. Certo. Poi guarda, anche italiano, ma non italiano a caso, italiano piemontese, quindi sì, un certo tipo d'Italia, non certo l'aspetto, diciamo, più rappresentativo di un'Italia lacre, lavorativa, industriale, fa parte di quel flusso di emigrati piemontesi che andarono verso l'Argentina in un momento molto difficile. Il Papa dei poveri, eccetera. La cosa interessante è che siamo passati di botto da un Papa teologo che rappresenta il massimo della razionalizzazione filosofica e teologica della dottrina, ma quanto di più lontano dalle esigenze del popolo, ha un papa che fa pregare, torna al misticismo, cioè ha fatto pregare, non ha parlato, il suo discorso è stato interrotto da preghiamo. Questo è micidiale, perché... Hai visto come ha colpito l'ascoltatrice che fa parte di questo gruppo di preghiera silenziosa, che non a caso è di area argentina, che fanno un mantra cristiano, sì. È una cosa molto nuova, molto mistica e molto seria poi all'interno della Chiesa, nulla a che fare con i movimenti più esteriori, con Radio Maria, con Medjugorje, qualcosa di serio. Ma c'era bisogno anche di questo per fronteggiare, per esempio, l'avanzata del neopentecostalismo, cioè quelli che portano dall'esterno del cattolicesimo un misticismo che il cattolicesimo ormai ha perso, si è svuotato totalmente e quindi appare una religione vuota. Ecco, è tornato immediatamente di colpo alla preghiera, quindi è un personaggio che ha le idee molto chiare, molto molto chiare, in termini strategici. Quindi vedremo come agirà prossimamente. Diciamo anche, se vuoi, la maniera in cui si è posto. Sai, la prima impressione, l'imprinting del Papa è importantissimo. L'altro Papa, ho ripetuto, che si è presentato in maglietta della salute, già sapeva che era un Papa che comunque avrebbe vacillato. Infatti è il Papa che ha secolarizzato completamente la figura del Papa dimettendosi. Il Papa a contratto, il Papa a termine, il Papa cococò, il Papa che dice che il Papa non è più qualcosa che ha una sua investitura sacra e quindi è eterno nel suo mandato, ma il Papa può a un certo punto accusare i segni della stanchezza. Questo Papa si è presentato già vestito da Papa, nel suo splendore. Naturalmente non sono mancati i commenti dei complottisti della dottrina, per esempio il Papa Nero, perché un gesuita che poi è riuscito a inserire all'interno del discorso la frase fine del mondo, io vengo dalla fine del mondo, ma diciamo che uno può leggerla in tutti i modi. Poi dall'altra parte ci sono stati i fanatici che ovviamente leggono qualunque cosa in un modo esagerato, esasperato, per esempio quando hai detto buonanotte e buon riposo c'è stato un commentatore televisivo che ha detto un discorso rivoluzionario, cioè questo è quello che poi abbiamo davanti, abbiamo un popolo disorientato. Chi è Bruno Vesper? Era in estasi ieri, non gli sembrava vero, era felice come una Pasqua. Ma poi la cosa divertente in queste letture televisive sembrava che si parlasse, che ne so, di una bimbetta felice che dice la poesia della prima comunione, non si parlasse di un papa navigato, con la pelle piuttosto corace, che ne ha viste tante, che è passato attraverso tanti problemi. C'è una sorta di vezzeggiamento nella confezione di questo papa che non corrisponde alla realtà. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, parliamo a questo punto di quello che è l'impatto mediatico del nuovo Papa. Io continuo, sono fissato nell'osservare le rappresentazioni iconografiche, l'imprinting dei due papi. Ho appena citato la maglietta alla salute nera che mi colpì quel pomeriggio che anch'io ero in piazza San Pietro in attesa davanti al balcone per servizio naturalmente, e vidi la maglietta nera e fuoriusciva del Papa come se si fosse tolto la maglietta nera della salute, che immagino retaggio di vestimenta da seminario, da qualcosa, mi ricordava qualcosa di antico, di muffito, di casalingo, di un'immagine gattara. Guardate il vezzoso polsino che fuoriesce dalla veste di questo Papa mentre saluta la folla, stretto con un gemello d'oro. Bellissimo, è tutt'altra cosa. Raul, buongiorno. Buongiorno a lei. L'abbiamo beccato, italo-argentino. Sì, buongiorno. Senta, io volevo espressare la mia opinione rispetto alla questione del Papa, che è molto strategica per la Chiesa, perché la Chiesa ultimamente non è che andava molto bene, perché c'erano molti problemi bancari, diciamo capitalisti, allora il cambio è, diciamo, come una delocalizzazione da Roma, no? Perché la scelta di uno di America Latina, il fatto che sia argentino, certamente sono contento, però... Perché un suo conterraneo poco fa ha telefonato dicendo che questa cosa a lui l'angosciava molto, lei invece al contrario dice... Guarda, io ho sentito al signore che parlava, non è che voglio entrare in polemica, però io le dico una cosa, la scelta di un Papa di Latinoamerica, diciamo, credo che è molto strategica per la Chiesa, perché è molto importante, perché anche per contrastare anche l'Islam che piano piano, diciamo, va avanti. La questione della dittatura militare, non che io non sia militare, perché non sono mai stato, però sento qui in Europa... Ma lei ha vissuto in Argentina negli anni della dittatura? Sì, l'ho vissuto completamente, perché avevo 20 anni, tra i 20 e i 30 anni. E conferma l'impressione del suo conterraneo? No, io non sono d'accordo, perché io qui in Europa sento sempre le madri di Plaza de Mayo... Che li ricevono tutto aperto, a braccio aperto, che ne so, però che si dimenticano che quella guerra l'hanno iniziato quei terroristi. Montoneros? Sì, Montoneros con l'ERP e tutto quello lì. Sì, beh, però gli altri hanno ammazzato qualche decina di migliaia di persone. Adesso non voglio. Sì. È vero che su. Che ci sono delle letture molto parziali, ma è talmente grosso, abnorme, il numero di morti innocenti, che devo dire che non me la sento in questo caso di dire che c'è stata una lettura parziale di parte. I morti sono stati veramente tanti. Michele, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io sono davvero entusiasta di questa nuova figura del Papa, che si differenzia molto da quella del Papa precedente. Papa Francesco, credo che si abbia scelto il nome Francesco per il Santo Francesco Saverio, che è stato il fondatore dei Gesuiti. Lo sai, dunque, Michele, io questo dubbio ce l'ho da ieri sera, però nessun giornale l'ha confermato. Ma io siete proprio convinti che siete convinti che lui abbia avuto in mente San Francesco? È molto più logico abbia avuto in mente Francesco Saverio, gesuita, di lingua spagnola, che ha viaggiato per tutto il mondo, che è un simbolo per i gesuiti. Mi sembra più chiaro che a quel Francesco lui alludesse, però oggi è passata la vulgata televisiva che sia San Francesco d'Assisi, è difficile tornare indietro. Però lei conferma questa mia impressione? Sì, io ne sono convinto, sono anche convinto che non lo sapremo mai. Ma sono sicurissimo, diciamo. Io mi ci giocherei qualunque cosa che quando ha detto Francesco pensasse a Francesco Saverio. Tra l'altro questo Papa non è mai andato a Assisi, mi risulta, quindi se avesse avuto questa particolare idea francescana, solo che è più complesso da raccontare Francesco Saverio rispetto a San Francesco. E poi mi ha colpito in modo particolare il fatto di non aver notato l'oro addosso a lui. È abituato a Ratzinger con l'orologio d'oro, con le scarpe Prada, con il crocifisso d'oro tempestato di diamanti. Sì, si è ripulito, ripulito dopo. Però aspetti, si è ripulito dopo. All'inizio era molto trasandato. La sua uscita, la prima uscita al balcone era un'uscita terrificante dal punto di vista proprio dell'abbigliamento. Poi dopo, certo, il Camaro, le scarpette di Prada, ha avuto le principesse che lo hanno molto ben consigliato. Ma all'inizio, diciamo, era piuttosto parvenu in questo aspetto di iconografia esteriore. Mary, buongiorno. Buongiorno, a parte complimenti alla trasmissione, io sono proprio, l'ascolto sempre, un religioso silenzio. Beh, religioso non esageri. No, vabbè, no, poi mi piace anche la sua ironia soprattutto. Vabbè, adesso parliamo del Papa, vabbè, che è più importante. Sì. Dunque io volevo dire, a parte vede che tutti siamo diversi, il Papa Ratzinger in un modo, l'altro, questo Papa, io invece sono rimasta appunto, come si è presentato, cioè mi ha lasciato proprio così, senza parole, insomma, alla fine ha detto buonasera, ha parlato della preghiera, inginocchia, insomma preghiamo, e poi soprattutto io so che i gesuiti, perché io sono stata più di 22 anni in collegio, ma non c'entra niente. Da chi è stata in collegio? Che tipo di suore erano? In collegio ho studiato musica, pianoforte. Ma da chi? Suore? Chi erano? Sì, c'erano suore. Ma di che ordine? Di che ordine? Esami. Le suore di che ordine? Erano le figlie di Maria, che hanno la casa madre qui a Viale Manzoni, diciamo. Beh, contenta di questo, no? Sì, beh, ho il mio diploma di pianoforte, a me aiuta tanto. Vabbè, come quindi lei ha preso, è il bersaglio ideale, diciamo, del messaggio che è stato comunicato immediatamente ieri sera rispetto a questo Papa. Bruno Ballardini. No, Bruno, io la questione sollevata dal nostro ascoltatore non è non è secondo me secondaria, visto che vogliamo fermarci sugli aspetti promozionali, anche se il termine è brutto. Io sono convintissimo che il Papa Francesco, quando ha detto Francesco, alludesse a Francesco Saverio, che è un gesuita, è un grosso personaggio. Perché hanno tutti preso San Francesco d'Assisi, che non c'entra nulla? L'ambiguità è voluta, cioè io credo che questo Papa sia parecchio pericoloso da un certo punto di vista strategico, cioè è molto più preparato di Ratzinger in termini di strategia, mentre Ratzinger aveva come punto forte la teologia, ma era talmente lontano dalle conoscenze del credente medio che per certi aspetti risultava in un'altra dimensione. Ti posso dire, Francesco Saverio è tanto importante come citazione per un papa argentino diventa romano. Pensa che fu sepolto nella chiesa dei gesuiti a Goa, ma il suo braccio sta a Roma, nella chiesa, nel reliquiario della chiesa del Gesù a Roma c'è il braccio di Francesco Saverio. Figuriamoci quanto sarebbe forte questa immagine. Ma ci torneremo, la sigla ci dice che abbiamo finito. Grazie Bruno Ballardini, grazie agli ascoltatori. È volata questa trasmissione.